in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla rassegna stampa dei giornali italiani. Cominciamo come sempre dalle prime pagine, da quella del Corriere. Oggi quasi tutti i giornali, anzi tutti i giornali, dedicano molto spazio alla legge di stabilità, a cercare di capire che cosa c'è in questo mega provvedimento che è un po' il bilancio dello Stato, che deve essere assolutamente approvato entro il 31 dicembre perché vale appunto per l'anno che viene. E gli approfondimenti sono naturalmente un pochino diversi. C'è chi sul Sole 24 Ore trovate quelli più completi come tradizione, e ce ne saranno altri anche sul Sole 24 Ore di domani. Ma iniziamo dal Corriere della Sera, che appunto ha un titolo non grandissimo, ma è il titolo principale: manovra, ecco cosa cambia per le famiglie e le imprese. Poi in realtà il titolo principale a mezza pagina, quello di maggior risalto, è dedicato a quello che è successo a New York. Lo avete sentito nei GR, in cui un giovane afroamericano ha sparato a due agenti di polizia che erano in un'automobile. Naturalmente l'ipotesi più probabile, più immediata, è quella che sia una vendetta tra virgolette, perché naturalmente è una vendetta assurda per i casi delle uccisioni dei giovani afroamericani Brown e Garner dei mesi scorsi. L'assassino poi si è tolto la vita, arrivava da Baltimora, quindi vicino a New York, in realtà a Brooklyn è accaduto il fatto, e aveva annunciato questa esecuzione. Ma naturalmente quando uno annuncia magari sui social network un'intenzione del genere, non è così scontato credergli, sembra un atto così fuori da ogni prevedibilità, però in realtà poi è successo. La fotonotizia è dedicata a una classifica stilata ieri da Financial Times, che il Corriere della Sera ha ripreso, sulle donne considerate le più eleganti del 2014. Naturalmente l'eleganza, come il buon gusto, il senso dell'umorismo, è tutta una questione di opinione. Questa è quella del Financial Times. Le donne nella classifica di queste donne eleganti ci sono due italiane: una è Gaia Repossi, direttore creativo di una maison di gioielli, e Giovanna Battaglia, che è un'ex modella, ora stylist, che non vuol dire stilista, ma colei che prepara i servizi di moda o altri eventi riguardanti le case di moda, e poi disegna anche una linea di accessori. Ci sono le foto naturalmente di queste due bellissime signore sulla prima pagina del Corriere. Vi segnalo però Padiglione Italia di Aldo Grasso, che oggi è dedicato a Matteo Salvini. È un po' secondo me serve a ricordarci tutti che Salvini l'altro ieri, o forse anche solo ieri, era qualcosa di molto diverso da quello che appare oggi. E Aldo Grasso ci ricorda alcune delle sue parole, ve lo leggo. Senti che puzza, scappano anche i cani, sono arrivati i napoletani, sono colerosi, terremotati, voi col sapone non vi siete mai lavati, chiuse le virgolette. Era l'estate del 2009 a Pontida, un boccale di birra in mano, Matteo Salvini intonava a squarciagola all'oltraggioso ritornello. Cori da stadio, dirà dopo, ma intanto l'obiettivo era molto chiaro: la Padania, la secessione, Roma ladrona, Napolitano Terun, l'epopea del Trota, il nord indipendente. Contrordine, compagni. La Lega ritenta il colpo dei mille, annettere il mezzogiorno alla Padania. Dopo l'esplorare regionale dell'Emilia Romagna, il segretario si allarga. Di qui l'idea del simbolo camuffato: non c'è la parola Lega, ma c'è il nome di Salvini, noi con Salvini. Al verde padano, i grafici hanno preferito una sobria scritta gialla in campo blu. Noi chi? Con la crescita del carroccio nei sondaggi, la truppa dei fiancheggiatori, dei profittatori, dei voltagabbana si è infoltita. Sono molti gli ex di Alleanza Nazionale, centralisti duri, a gridare «vengo anch'io». Da Silvano Moffa, ex presidente della provincia di Roma, a Stefano Gaggioli, ex presidente di Sviluppo Italia. Per non parlare dei berlusconiani, degli alfagnani, la più convinta è Barbara Mannucci, quella che diceva «Berlusconi è la luce, resterò con lui fino alla fine, sarò la sua Claretta Petacci». Sì, ciao. Il nemico ora è più a sud, senti che puzza, scappano anche i cani, sono arrivati gli extracomunitari. E questo appunto un po' per ricordarci, perché le parole sono importanti, anche se poi vengono, appunto, come ha fatto Salvini, ha detto erano cori da strada. Era il 2009, 5 anni fa, non un millennio fa. Comunque, a proposito di Salvini, vi segnalo dalla Repubblica un sondaggio che dà un boom della Lega di Salvini. La Lega, secondo questo sondaggio, sarebbe addirittura, se si votasse oggi, al 13,3%, con il PD al 37%, Forza Italia al 13,6%, quindi la Lega ha quasi raggiunto Forza Italia, e il Movimento 5 Stelle al 19,2%, quindi poco sotto quel 20% che era stato il record delle ultime politiche. Il titolo appunto dell'articolo, che poi di questo articolo, che prende spunto dal sondaggio fatto da Demos ed è commentato da Ilvo Diamanti, è più fiducia nel governo, in infatti il premier sale al 50% di fiducia, ma c'è appunto boom della Lega di Salvini. Il titolo principale però di Repubblica è dedicata ai rapporti tra Matteo Renzi e il Quirinale, e secondo Matteo Renzi appunto Berlusconi dirà sì al nostro candidato. Sapete che c'è tutta questa discussione su chi, su quali nomi devono essere scelti, se vanno scelti tra opposizione e maggioranza, coinvolgendo in particolare Berlusconi, che asserisce che nel famoso patto del Nazareno c'era anche un accordo per il Quirinale. Sono tutte ipotesi, naturalmente bisogna aspettare i fatti, bisogna vedere che cosa succederà quando si comincerà a votare per il nuovo Presidente della Repubblica. Sapete, Napoletano darà probabilmente le dimissioni entro gennaio, non si sa esattamente quando, ma entro gennaio. La fotonotizia della Repubblica però è dedicata ai fatti di New York. New York spara a due poliziotti, una vendetta per i neri uccisi, e la foto è proprio quella dell'omicida, che è Ismael Brinsley, mentre viene soccorso dalla polizia perché, come abbiamo detto, ha sparato, ha tolto la vita a due agenti e poi si è ucciso. La prima pagina del Sole 24 Ore, che come vi dicevo è il quotidiano che dedica più spazio alla legge di stabilità, quindi se siete curiosi, e lo siamo tutti in realtà, di sapere appunto quali sono le conseguenze su ciascuno di noi di questo gigantesco provvedimento approvato dal Parlamento, sul Sole 24 Ore trovate tutto da pagina 2 a pagina 7. Il titolo: gelata sui rimborsi IVA, 2,5 miliardi in meno. E poi c'è un accenno al commento del Ministro dell'Economia Padoan, che ha definito la manovra equilibrata ed efficace e che sostiene la crescita. Su questa questione dell'IVA c'è un commento di Carmine Fotina, che è un nostro collega di Roma che da sempre segue con attenzione tutto il settore dei media, delle nuove tecnologie, e il commento è in particolare sul fatto che sui giornali digitali sarà applicata un'IVA al 22%, cioè molto più alta di quella dei giornali di carta. Il Carmine Fotina definisce questa una scelta anacronistica. Vi leggo le prime righe del commento, che poi continua a pagina 3. Le speranze di una correzione lungimirante si sono infrante in extremis al Senato. Nonostante le attese per un intervento nella legge di stabilità, l'IVA per giornali, periodici e agenzie di stampa in versione digitale resta al 22%. Come di consueto vi segnalo di domenica la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, che ogni settimana si occupa di un singolo titolo quotato e cerca di spiegare appunto ai risparmiatori quali sono le criticità o invece i lati positivi del bilancio di queste aziende. Particolarmente significative i casi di cui parla adesso, perché siamo a fine anno, quindi ci sono quasi tutti i dati, sicuramente ci sono quelli dei primi 9 mesi. Questa settimana Vittorio Carlini si concentra su Buzzi Unicem. Il business negli Stati Uniti spinge i margini ma resta al nodo delle valute. La prima pagina della Stampa ha una fotonotizia ancora diversa, intitolata La prima cyberguerra di Corea. Sapete, la questione del film The Interview, che doveva essere pronto, doveva uscire negli Stati Uniti. Il film è un immaginario complotto, tratta di un immaginario complotto per uccidere il leader nordcoreano Kim Jong-un. La Sony che era la casa di produzione che l'ha finanziato, lo produce e lo avrebbe dovuto portare nei cinema, ha deciso di non portarlo nei cinema questo film. C'è stato un hackeraggio al sito della Sony, o meglio alla Sony, ai computer della Sony. Le accuse sono alla Corea, agli hacker coreani, che le accuse sono state respinte, da qui appunto l'idea di una cyberguerra. Ma anche sulla Stampa molto spazio per la manovra, la legge di stabilità, quella che una volta veniva chiamata finanziaria. La manovra aiuta imprese, artigiani e redditi più bassi, questo il titolo sintetizzato. E poi un commento di Stefano Lepri, frenare la corsa delle lobby, perché sapete che per esempio quello che è successo quando non si riusciva ad avere il testo da far votare in Senato, era proprio che Matteo Renzi in persona si fosse messo a limare tutti questi piccoli cambiamenti dell'ultima ora, frutto appunto dell'opera delle lobby, intese come persone che difendono singoli interessi o parlamentari che hanno cercato di introdurre vantaggi per le loro circoscrizioni, con naturalmente molto tutti guardando al loro particolare. E si è detto tante volte che questo non era più il momento di fare leggi di questo tipo, carrozzoni in cui all'ultimo momento venivano messi dei provvedimenti che davano soldi di qui e di lì, e poi andando a scoprire che erano appunto non certo per il bene comune, inteso nel nel senso più ampio del termine, ma per piccoli interessi. Piccoli o medi interessi. Il Messaggero ha un'intervista al Premier e quindi il titolo Renzi due punti, Roma deve ripartire, quindi un'intervista che soprattutto si focalizza sui nodi di Roma, anche sull'ipotesi di candidarsi per le Olimpiadi del 2024, un'ipotesi che sapete ha suscitato molte reazioni negative, anche se secondo me effettivamente usando la logica, certo che oggi se uno dice Roma si pensa subito alla terrificante inchiesta su Roma Capitale, però mancano 10 anni e forse è proprio ha ragione chi dice che bisogna proiettarsi nel futuro, pensare che tra 10 anni Roma e l'Italia potrebbero essere una città e un paese completamente diversi. La fotonotizia è dedicata alla partita di ieri sera con lo scontro tra Roma e Milan, se lo sapete è finito a 0-0 perché il Milan ha giocato molto bene, soprattutto si è difeso molto bene, quindi il titolo rigore negato pari con il Milan, Totti e Company tornano a meno 3 dalla Juve. Il titolo principale della Avvenire, l'Italia del presepe che nessuno chiude, un focus appunto su questo simbolo, quello che l'Avvenire definisce il simbolo amato del Natale, più forte delle polemiche, sapete ce ne sono state tante, chi lo voleva togliere dalle scuole per esempio invocando un principio di laicità totale, e chi invece anche a Milano è successo lo difende e pensa che sia appunto un simbolo del Natale, un simbolo della cristianità e che non debba essere tolto per decreto, diciamo. Come al solito l'Avvenire ha delle notizie che sugli altri giornali non troviamo, per esempio un focus sul Kenya, Nairobi blindata, incubo Shabab, reportage dal Kenya dopo i rai jihadisti. Sapete che in Kenya, che è un paese dell'Africa che sicuramente ha intrapreso un percorso di crescita economica ma anche di democratizzazione, però ci sono anche delle forti spinte fondamentaliste come in altri paesi dell'Africa. La prima pagina del giornale, paghiamo Roma e Chernobyl, questo è naturalmente la lettura della legge di stabilità da parte del giornale, una voce molto critica, il bluff del Premier, così sottolinea il giornale, le mance che ha eliminato erano volute dal PD, quei provvedimenti di cui parlavamo, ma vi segnalo prima della pausa per il meteo e la pubblicità, la fotonotizia del giornale che ha un cucciolo di Labrador, vi lascio immaginare la tenerezza di questa immagine scelta per parlare di questo provvedimento che dicevamo, cioè in questa gigantesca legge in cui entra di tutto. Ecco, il governo ha depenalizzato le violenze sugli animali, cancellato anni di battaglie, così scatta la mobilitazione. Vedremo che la notizia viene data anche da altri giornali e vedremo come appunto forse il governo, accortosi di questo passo falso, ha già detto che ritirerà questo provvedimento, questa depenalizzazione dei reati contro gli animali. Ci lasciamo un attimo, ci ritroviamo tra poco. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, li abbiamo visti quasi tutti, mancano ancora Libero che, come dicevamo insieme agli altri, parla del titolo sulla legge di stabilità e come c'è da aspettarsi, insomma la legge di stabilità vista dall'opposizione, dalle voci dell'opposizione, quindi il titolo Renzi riscrive la manovra, gli unici tagli sono ai ciechi, un titolo polemico che però ha dentro appunto questa analisi di ciò che è stato tagliato e ciò che invece viene dato. E allora nel sommario si spiega: sceneggiata nella notte per poter dire ho fermato il magna magna, peccato però che Renzi abbia fermato anche le forbici, della spending review non c'è traccia, invece si tolgono soldi ai disabili, uno dei tanti tagli effettuati. Il Fatto Quotidiano, stabilità, il Senato vota una legge che non ha visto, questo è, come vi dicevo prima, venerdì il testo è stato presentato ai senatori con molto ritardo e c'è da chiedersi appunto con quanta attenzione possono averlo letto, ma questo era dovuto, abbiamo detto, al fatto che Renzi, arrivando da Bruxelles, ha voluto riguardare personalmente alcuni degli emendamenti presentati e poi cancellarli. Marco Travaglio si occupa del tema del finanziamento pubblico ai partiti, se ne discute in questi giorni, c'è chi vorrebbe reintrodurlo, è una questione abbastanza complessa, detto così mai più soldi ai partiti può sicuramente sembrare un'affermazione giusta, Giunta. Chiediamoci però, siccome i partiti esistono, hanno delle strutture e devono mantenersi e sono, fino a prova contraria, uno strumento di democrazia, se non vengono finanziati pubblicamente, quanto aumenta il rischio invece di finanziamenti illeciti? È, ripeto, una questione aperta da non liquidare però così, insomma, magari con frasi fatte o approfittando per se sia l'opposizione per attaccare il governo o viceversa. Comunque l'editoriale di Marco Travaglio, eroi un par di palle, e si occupa appunto di questo. Vi segnalo anche la prima pagina del Secolo XIX, perché una delle questioni che avrebbe potuto entrare nella finanziaria e non lo ha fatto era quella di alcuni sgravi per chi è vittima delle alluvioni, come per esempio i genovesi. E allora appunto il Secolo XIX titola "Mutui via alla moratoria", e all'interno, perché ogni giornale analizza quello che si sa della legge di stabilità, spiega appunto "alluvionati fuori dalla manovra". È durissimo, ai limiti dell'assurdo, ma è così. Complice anche il pasticcio della legge di stabilità, che ha messo a dura prova esecutivo e tecnici del tesoro nella nuova proroga per il pagamento delle tasse di competenza dello Stato, quella concessa per le scadenze del 10 ottobre fino al 20 dicembre, non c'è traccia. E questo nonostante il governo abbia dato parere positivo a un ordine del giorno che chiedeva lo slittamento della scadenza. E il Secolo XIX, poi, come ha fatto il giornale, ha una grande fotonotizia dedicata a questo provvedimento che depenalizza i reati contro gli animali. Qui a suscitare la nostra tenerezza non è, come sul giornale, un cucciolo di Labrador, ma un cucciolo di Beagle. Il titolo: "La rivolta degli animalisti. Depenalizzare il maltrattamento degli animali? Giammai, anche se si tratta di cercare di sveltire il corso della giustizia. Ma il declassamento del reato previsto dalla riforma fa insorgere gli animalisti che tempestano di me il governo per difendere il principio che certi comportamenti debbano essere sanzionati penalmente. Le proteste sembrano aver centrato lo scopo. Pronto lo stralcio dell'articolo". Perché naturalmente quando è stato notato questo articolo, la prima reazione è stata: sì, lo si fa per aiutare a disingorgare la giustizia, perché chiedere una sanzione penale per i reati contro gli animali aumenta l'ingorgo di cause nei nostri tribunali. Non sembra però una spiegazione che convince, e quindi da qui pronto appunto lo stralcio, anche perché forse rendere più celere l'iter di una qualsiasi denuncia in un tribunale forse andrebbe fatto in altro modo che non semplicemente eliminando i reati. Sembra fin troppo semplice. Il Manifesto ha una fotonotizia, come sempre, con un titolo che così la cerca di rendere il più originale possibile. Il titolo in questo caso è "Babbo Natale", e la fotonotizia è di Berlusconi che bacia il suo cane, il cane della sua compagna. "La lunga notte della legge di stabilità con il sì alla manovra si conclude con il regalo di Berlusconi a Renzi", da qui appunto Babbo Natale, che non si capisce bene se è Berlusconi stesso o Renzi che fa un regalo a Berlusconi. "Senatori forzisti lasciano l'aula, ma l'intervento del capo", Berlusconi, "blocca in Senato quelli necessari per approvare il nuovo calendario sulla legge elettorale. Così si potrà votare più in fretta l'Italicum. Il patto del Nazareno si rinnova, il 7 gennaio comincia la vera partita". Questo è un po' quello che dicevamo prima, che il cosiddetto patto del Nazareno, il famoso incontro tra Renzi e Berlusconi, in cui nessuno sa esattamente di che cosa si è parlato, non c'è naturalmente una trascrizione di quello che si sono detti, però ciascuno ha la sua versione. Secondo Berlusconi si è parlato per esempio anche del capo dello Stato, alcuni del PD negano, Renzi in realtà è stato abbastanza ambiguo su questo. In ogni caso vedremo appunto innanzitutto come finisce come finisce il voto sulla legge di stabilità, e poi la partita successiva, quella per le riforme costituzionali, e poi naturalmente l'elezione del capo dello Stato. Vi segnalo la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che naturalmente si concentra su quello che è successo ieri a Roma, questo 0-0 tra Roma e Milan. E poi vi segnalo anche, naturalmente ci sono molte, molte anticipazioni sulle partite che ci saranno oggi, e poi un bel approfondimento su Lindsay Vonn, sapete, la campionessa di sci americana, che dopo 2 anni di interventi, riabilitazioni, annunciati ritorni che poi non ci sono stati, sofferenze fisiche penso enormi, è tornata a sciare e ieri ha vinto un'altra gara, e quindi insomma una bella storia di rinascita sportiva. Veniamo alle pagine interne dei giornali. Come vi dicevo, il Sole 24 Ore in assoluto è il quotidiano che dedica più spazio alla legge di stabilità. Lo farà, ci tengo a dirlo perché so quanto ci hanno lavorato i miei colleghi, anche domani, con con sul Sole 24 Ore del lunedì, e quindi chiunque voglia appunto poi dicevo da pagina 2 a pagina 7 tutto quello che si riesce a sapere finora sulla legge di stabilità, con diviso naturalmente in sezioni. Per esempio a pagina 3 c'è tutto quello che riguarda le imprese, quindi in particolare anche i rimborsi IVA, poi ci sono quello che riguarda i lavori sulla casa, sapete i bonus che ci sono stati, poi quello che è stato stanziato per le infrastrutture, e poi ancora il bonus di 80 euro che sapete è diventato definitivo, Renzi l'aveva sempre detto, non è una misura una tantum, poi per quanto riguarda il bonus bebè, e poi vi segnalo anche, e poi il Jobs Act, questo lo trovate in particolare a pagina 8, che non è proprio nella legge di stabilità ma è comunque collegato anche per quanto riguarda le polemiche, gli scontri tra maggioranza e opposizione. E poi vi segnalo 4 pagine di speciale su Expo, il grande evento, l'esposizione universale che quest'anno si tiene ogni 4 anni e quest'anno si tiene l'anno che verrà, non siamo ancora nel 2015, si terrà a Milano, mancano infatti, è scattato il conto alla rovescia, ci ricorda il Sole 24 Ore di oggi, 131 giorni all'inizio di Expo che sarà il 1° maggio. Queste 4 pagine cercano un po' di fare il punto, si è parlato molto di ritardi anche perché ci sono state molte inchieste per appalti, per casi di corruzione nell'assegnazione degli appalti, quindi alcuni dei rallentamenti sono dovuti anche a questo. Sara Monaci ci spiega, una task force per la volata finale, fino al 1° maggio impegnati nel quartiere di Ropero, che è qui alla periferia di Milano, che è la sede di Expo, oltre 3.500 addetti 20 ore su 24. Dalle pagine interne del Corriere vi segnalo un intervento di Gino Strada, che è in Sierra Leone, il fondatore di Emergency, medico lui stesso, medico chirurgo, si trova nell'ospedale di Sierra Leone, in Sierra Leone, e nel nuovo ospedale in particolare fondato da Emergency in Sierra Leone, e ci racconta la sua lotta all'Ebola da là. Quindi l'ospedale all'epicentro di Ebola, Italia lascia partire i tuoi medici, l'ha detto più volte Gino Strada, c'è proprio anche un problema burocratico nel sbrigare queste pratiche che autorizzano i medici italiani a prendere un congedo dall'ospedale dove lavorano per andare in questo caso nell'ospedale di Emergency in Sierra Leone, ma ci sono tantissime altre le organizzazioni, Medici Senza Frontiere in primis, che hanno si appoggiano appunto a medici stranieri, e in Italia, ma guarda un po' che strano, le procedure per appunto avviare questi percorsi di lavoro all'estero, di volontariato in questo caso medico, sono più complicati che altrove, e Gino Strada appunto fa questo appello. Vi segnalo a proposito di grandi eventi un approfondimento dalla Stampa su cosa resta di Torino 2006. Nel 2006 Torino ospitò le Olimpiadi invernali, spesi 1,3 di milioni all'anno per una pista mai più usata. Ho sentito proprio qualche giorno fa Chiamparino, che all'epoca era sindaco di Torino, adesso è presidente della regione, sindaco invece è Fassino, che dicevano è stato un grande, cifra alla mano, è stato un grande evento. Adesso stiamo facendo proprio i conti, adesso pensate, nel 2014 fanno i conti su un evento del 2006, alla fine siamo andati in pari. Ora però Marco Imarisio dalla Stampa ci spiega, i giochi invernali portarono miliardi di investimenti ma da anni le strutture sono inutilizzate, nel 2016 le società di gestione andranno in liquidazione. Dalla Corriere della Sera una bella pagina sulle stelle cadenti di Natale, siamo abituati a pensarli come un evento estivo, le stelle cadenti, invece da questa notte nei cieli italiani, ci spiega Giovanni Caprara, appariranno le meteore delle Geminidi, manca la cometa che si vedrà soltanto a gennaio. Un po' di atmosfera magica natalizia non guasta mai. Dalla Repubblica un bellissimo pezzo di Emanuela Audisio, che ha intervistato Ana Fidelia Quirot, che oggi ha 51 anni, è un'atleta cubana, è stata 2 volte campionessa mondiale e ci racconta insomma come lo sport è stato e ancora, pensate ai campioni di baseball, una delle bandiere di Cuba e di Fidel in particolare. Infatti il titolo scelto da Emanuela è "Vinsi per Fidel e per il popolo, ma solo con i soldi dell'America il nostro paese tornerà a correre", il riferimento naturalmente a questo storico annuncio di Obama che gli Stati Uniti tolgono l'embargo che durava da decenni a Cuba. Questo probabilmente aiuterà l'economia cubana, dietro questo accordo ci sarebbe l'opera diplomatica del Vaticano, in ogni caso questo accordo finalmente c'è e forse appunto si tratta di una svolta, di una delle cose per le quali Obama verrà sicuramente ricordato. Vi segnalo, insomma, un po' per tornare alle nostre vicende, a pagina 3, Iena, sapete, il commentino che c'è sempre, ve lo leggo, sono poche righe. Tu che fai per vivere? Il ribelle del PD. E questo si lega anche a quello che sta succedendo in Parlamento sulla legge di stabilità, perché come sempre l'opposizione, come sempre lo dico perché effettivamente negli ultimi mesi è stato così, l'opposizione più dura, Renzi, più efficace potremmo dire, non è tanto quella dell'opposizione vera, cioè di Forza Italia, della Lega, ma del suo stesso partito, la cosiddetta fronda interna, insomma gli anti-renziani o non so come li si voglia chiamare. Vi segnalo dalla Stampa anche un'intervista a Oscar Farinetti: Italia è unica come Benigni, per questo non temo i controlli. Sapete che Oscar Farinetti gestirà molte dei punti di ristorazione con la sua società che ha dato vita a Italy. Molti dei punti di ristorazione all'interno di Expo, c'è qualcuno che ha detto che l'assegnazione non era proprio regolare, una di quelle polemiche tutte italiane, secondo me abbastanza incomprensibili vista la qualità di quello che ha fatto finora Oscar Farinetti. In ogni caso, lui dice, l'assegnazione a noi senza gara all'Expo, se ci fosse un padiglione dedicato alle auto italiane in Formula 1 andrebbe alla Ferrari. Quelli che sono contro di me sono gli stessi che non vogliono l'Expo, le riforme, e fanno il giochetto di abbinarmi a Renzi. Ultimissima segnalazione prima di lasciarci per il traffico, un'intervista alla mamma di Loris, il bambino ucciso, Veronica Panarello, il bambino ucciso vicino a Ragusa, di cui non si parla più, cioè dopo giorni e giorni e giorni di ubriacatura, di notizie, di inviati speciali nel paese, adesso non ne parla più, non ho trovato niente su nessun giornale. Il Secolo XIX l'ha intervistata e lei continua a proclamarsi innocente. Se volete leggere questa intervista, pagina 7 di Paolo Crecchi, a Loris negati i miei fiori, ucciso di nuovo, tornerò a Cairo da donna libera. Ci lasciamo un attimo per il traffico. In primo piano. Rieccoci ancora, buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo sulle pagine interne dei giornali, vi segnalavo questa intervista sul Secolo XIX, il quotidiano di Genova, a Veronica Panarello, la mamma di Loris, il bambino ucciso vicino a Ragusa, e come vi dicevo lei continua a proclamarsi innocente e in realtà appunto è una vicenda sicuramente che ha suscitato tantissime reazioni, perché è la cosa più innaturale che si possa immaginare, una mamma che uccide suo figlio, e però questa donna continua caparbiamente a proclamarsi innocente, e anche alla giornalista che l'ha intervistata lo ripete più volte. L'ultima domanda che le fa è: vuole dire qualcosa ai suoi amici di un tempo? Sì, fidatemi di me, tornerò da donna libera, vi voglio bene. Dalle pagine di Libero, abbiamo parlato della riforma della giustizia e di quell'articolo per esempio molto contestato appunto sulla depenalizzazione dei reati contro gli animali. Qui intervista al ministro Andrea Orlando, che è del PD ed è naturalmente quello che ha preparato questa riforma, che tutti dicono sia molto necessaria, però poi ogni volta che si tenta di riformare la giustizia le resistenze sono enormi. Il titolo dell'intervista: il mio sogno era fare il muratore, proverò a ricostruire la giustizia. L'Associazione Nazionale Magistrati, che è la più importante associazione appunto dei magistrati, non l'unica però è quella che sicuramente ha il maggior peso, è contro la sua riforma. Lui non si scompone, si legge nel sommario dell'intervista: rispetto le toghe ma non le temo, e quanto a Matteo Renzi abbiamo idee molto diverse sulla linea del PD, fin qui però niente sgambetti, perché sapete appunto Andrea Orlando non era tra i renziani di stretta osservanza, così potremmo dire, però comunque gli è stato dato nel governo Renzi un posto molto importante, quello di ministro della giustizia. Dal giornale vi segnalo un'altra bellissima intervista a Giorgio Boatti, che è scrittore, saggista, è stato consulente credo di tutte le case editrici italiane, autore di tantissimi libri, e Stefano Lorenzetto, che ogni domenica sul giornale fa queste belle interviste a quelli che lui chiama i tipi italiani, e qui ci racconta appunto il mondo, la vita e anche i sogni di Giorgio Boatti, l'esploratore di monasteri, così lo chiama, che bel Natale a Finalpia è un piccolo borgo vicino a Finale Ligure, vicino a Savona, dove lui appunto trascorrerà il Natale. È come un'astronave abitata da marziani, questo convento che c'è a Finalpia. Lo scrittore adesso ha vissuto per 14 mesi con i monaci di 30 eremi, manager bocconiani, reduci dall'Afghanistan, stilisti, e ci racconta appunto questo mondo, perché ciò a cui si dedica questo progetto, il suo progetto di questo momento è appunto questo, di andare a esplorare la vita nei monasteri, soprattutto vedendo chi ci va che non è monaco o monaca di clausura. Dicevamo le pagine dell'Avvenire, che sono sempre particolari, sempre dedicati a fatti, accendono alla luce i riflettori su fatti che magari altri giornali dimenticano. Oggi, per esempio, l'Avvenire si dedica anche alla Tunisia. Tunisia al ballottaggio, si chiude la primavera. Oggi la scelta del primo presidente eletto è Sebsi, punta dritto a scalzare Marzouki. Ed ecco un'analisi su quello che sta succedendo. E poi un interessantissimo pezzo su questa creazione di una borsa in Africa. L'Africa cerca l'unità sui listini, il titolo del pezzo. La borsa si chiamerà BRVM, una super borsa che raggruppa 8 paesi dell'area occidentale dell'Africa. Ma veniamo alle pagine culturali, abbiamo ancora pochi minuti. Cominciamo naturalmente dal domenicale, vi leggo come sempre il breviario di Gianfranco Ravasi. Le lacrime sono lo sciogliersi del ghiaccio dell'anima, è una citazione da Hermann Hesse. Il manto del gelo ormai si stende sulle nostre pianure, mentre la neve riveste le vette dei monti. Il Natale si avvicina col suo tepore sentimentale, sopraffatto dal calore delle promozioni commerciali. Per ritrovare sotto questo contrasto esteriore una fiamma di autentica spiritualità, ricorriamo alla citazione di Hesse, un autore amato ancora oggi dai giovani, pur nella vaghezza delle sue concezioni, o forse proprio per questo. Varcando l'enfasi della frase, si ha in esso un appello cristiano genuino e realistico. Abbiamo infatti reso le nostre lacrime gelide come un inverno. L'indifferenza è la malattia del nostro tempo, la superficialità ne è l'antidolorifico, l'insensibilità l'esito finale. Ritornare al calore del cuore, al pulsare della coscienza, al fremito dello spirito, all'artiglio del rimorso per la colpa sono invece il vero antidoto a quella malattia. Chateaubriand descriveva semplicemente così la sua conversione: ho pianto e ho creduto. La copertina poi in realtà è un articolo di Domenico Scarpa dedicato a due libri, uno di e uno su Toti Shaloya, Topo Topo senza scopo. Nel centenario della nascita torna Toti Shaloya con la riproposizione di un suo quadernetto di disegni e nonsense. Gli animali sono al centro delle poesie. Poi c'è questa biografia di Eloisa Morra che lo colloca al posto giusto nel Novecento. La rubrica Memorandum del nostro direttore, nostro di Radio 24, del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, oggi è dedicata a Chieti, dove sapete che Napoletano gira un po' tutta l'Italia e poi ce la racconta partendo da spunti, incontri con persone. Oggi appunto a Chieti, il titolo Il campus di Chieti e la scintilla dell'altro Abruzzo. La lettura del Corriere della Sera, sapete, la copertina è sempre fatta da un artista in esclusiva per la lettura. Questa settimana è Maurizio Galimberti. E poi vi segnalo all'interno un bellissimo pezzo di Michele Ainis, costituzionalista, che ha come tema la fedeltà. Il titolo: La fedeltà non è una colpa, un sentimento trascurato e spesso disprezzato dal malcostume politico e dai cittadini. Come sempre, questi pezzi della lettura in realtà prendono spunto da più di un libro, li trovate tutti elencati nel pezzo. E poi c'è Ainis che fa proprio un excursus nella letteratura, ma anche nella società, di come viene appunto considerata la fedeltà. L'infografica è dedicata alle vincite alla lotteria, il 6 al superenalotto più raro di un asteroide, molto bella, la trovate a pagina 9 della lettura, ma vi segnalo soprattutto questa settimana la copertina della Domenica della Repubblica, che è dedicata a Richard Scarry, forse, secondo me, mio modesto parere, il più grande illustratore per bambini del nostro tempo, del secolo scorso, ma anche di questo secolo a questo punto. Nel magico mondo di Richard Scarry, mio padre, infatti il figlio Huck, insieme a Guido Andruetto della Repubblica, ha ripercorso la figura del padre, e quindi che addirittura Andruetto è andato a trovarlo nello chalet sulle Alpi Svizzere, dove vive il figlio, dove sono nati i personaggi del grande disegnatore. E in copertina c'è tra l'altro un gatto Babbo Natale che nella sua sacca ha un gigantesco pezzo di formaggio, sotto di lui c'è un topino che dorme, quindi gatto Babbo Natale che porta un regalo al presunto nemico topo. E sempre dalla Repubblica, un altro giornalista è andato a trovare un altro grande personaggio, questa volta alive and kicking, vivissimo, Luciano Ligabue. E quindi il titolo: Natalia in casa Liga, che cosa fa una rockstar quando scende dal palco a Correggio per parlare di Italia, Tondelli, Inter e della fine di un grande sogno. Sempre dalle pagine interne della Repubblica, la consueta intervista della domenica di Antonio Gnoli, questa volta a Marina Jarre, che è una scrittrice drammaturga piemontese, i miei conti aperti con l'infanzia e con il fantasma di un padre ebreo. La rubrica, sapete, a cui sono affezionatissima, la poesia del mondo, che ogni domenica Walter Siti cura per la Repubblica, concentrandosi su un poeta in particolare, oggi è dedicata a Basho, il grande poeta giapponese vissuto tra il 1684 e il 1694, autore soprattutto di haiku, quelle poesie brevissime di tre righe fulminanti. Vi segnalo l'ultima cosa che ho tempo di segnalarvi, è la prima pagina di Macro, il supplemento del Messaggero, dedicato a Terzani, Tiziano Terzani, l'uomo e la storia, e ci si ripercorrono un po' il suo percorso di vita di giornalista e anche i suoi libri. Era l'ultima segnalazione, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli, un ringraziamento a Carmine in regia, a Carmine Lauricella, che è riuscito a tenermi nei tempi, e ci sentiamo presto, e se non ci sentiamo prima di Natale, tanti auguri a tutti.